Lelia fuggì, ma non rimase sola a lungo. Un principe russo le disse alla svolta di un vicolo: «Zinzolina, cosa stai cercando qui? E perché sei sola? Vuoi amarmi per un'ora? Ti darò questa catena di diamanti che è un regalo degli zar». Lelia fece un gesto di disprezzo e un grande signore francese se ne accorse. «Che maleducazione!» disse. «Come sono maleducati e insolenti questi stranieri! E da quando parlano così alle donne? Chi si crede di essere questo zoticone, Zinzolina? Ascolta!» E offrì il suo palazzo, il suo popolo, il suo vino e i suoi cavalli. «Ma credete così poco al piacere che offrite?» disse Zinzolina, «visto che aggiungete tante seduzioni per avidità? I vostri abbracci sono così orrendi, visto che li pagate così tanto? Dov'è l'amore in tutto questo? Dove c'è solo l'ardore dei sensi? Qui c'è brutalità, corruzione. Non avete altra attrattiva che la forza, la vanità o il guadagno. Il piacere è dunque morto, soffocato dalla civiltà. L'amore antico ha abbandonato la terra e ha preso il volo verso altri cieli?» Poi si tirò indietro la cuffia sulle spalle e alla vista di quel volto sempre altero e grave la folla si disperse e gli audaci adoratori di Pulcherie si inchinarono rispettosamente davanti a Lelia. «Stai già rinunciando alla tua impresa», disse Pulcherie afferrandola per una larga manica. «No, no, non ancora, Lelia. Non tutto è senza speranza. Il tuo tempo non è arrivato». «Il mio tempo non arriverà», disse Lelia. «Tutto questo mi dispiace e mi irrita. Il loro respiro è freddo, i loro capelli sono ruvidi, i loro abbracci lividi e l'ambra dei loro abiti nasconde male, non so quale emanazioni acri e grossolane che mi respingono e mi fanno ribrezzo. In mezzo a loro il mio sangue si calma e le mie idee si chiariscono. La mia volontà si alza e non ho altro desiderio che quello di sedermi a guardarli passare, disprezzandoli». «Vieni qui, Lelia, ascolta un giovane che ho appena conosciuto e che sto infastidendo invano. Forse la compassione sarà più efficace su di te di qualsiasi altra cosa». Lelia seguì la sorella sotto una grotta artificiale illuminata sul fondo da una piccola lampada. «Fermati qui», disse Pulcherie, nascondendola in un angolo buio, «e guarda questo bel ragazzo dai capelli scuri. Lo conosci?» «Sì, lo conosco», rispose Lelia. «È Stenio. Ma cosa ci fa nei giardini riservati? E in quella grotta che, se non sbaglio, è uno degli ingressi sotterranei del famoso padiglione. Lui? Stenio il poeta? Stenio il mistico? Stenio l'amante?» «Oh, ascoltalo», disse Pulcherie, «vedrai che è follemente innamorato e che devi compatirlo». Allora Pulcherie lasciò Lelia dove l'aveva nascosta e, avvicinandosi a Stenio in punta di piedi, cercò di baciarlo. «Lasciatemi, signora», disse il giovane con orgoglio, «non ho bisogno delle vostre carezze. Vi ho detto che non era voi che cercavo, quando, ingannato dal suono della vostra voce, vi ho seguita in questi giardini. Ma da quando vi ho strappato la maschera, so che siete solo una cortigiana. Su, via, madame, non posso essere vostro. Sono povero e inoltre non desidero piaceri che debbano essere pagati. C'è solo una donna al mondo per me, ed è Lelia. È qui. La conoscete?» «Conosco Lelia, perché è mia sorella», rispose Pulcherie. «Se volete seguirmi sotto questi sotterranei bui, vi porterò in un luogo dove potrete vederla». «Oh, state mentendo», disse il giovane. «Lelia non è vostra sorella e non potreste mostrarmela. Vi ho seguita fin qui, credulone come un bambino, sperando che voi me la mostraste. Ma mi avete ingannato e ora tornate da sola. Fanciullo, posso portarvi da lei se voglio. Ma sappiate in anticipo che Lelia non vi ama. Lelia non ricompenserà mai il vostro amore, credetemi. Cercate altrove le gioie che speravate da lei. E se non potete scacciare questa chimera dalla vostra mente, almeno ubriacatevi di sfuggita alle sorgenti del piacere. Domani vi sveglierete per correre di nuovo dietro al vostro fantasma, ma almeno durante questa corsa affannosa e folle la vostra vita non si consumerà nell'attesa e nel sogno. Farete dolci soste sotto le palme con le figlie degli uomini e seguirete solo il demone dalle ali di fuoco, che vi chiama dal profondo delle nuvole, rinfrescato e consolato dalle nostre libagioni e dalle nostre carezze. Venite a posare la testa sul mio petto, giovane sciocco che siete, Vedrete che non voglio trattenervi e farvi addormentare a lungo. Voglio solo alleggerirvi nel vostro doloroso cammino affinché voi possiate ripartire con più coraggio verso la poesia e verso Lelia. Oh, lasciatemi, lasciatemi, disse Stenio con forza. Vi disprezzo e vi odio. Voi non siete Lelia, non siete sua sorella, non siete nemmeno la sua ombra. Io non voglio i vostri piaceri, non ne ho bisogno. È solo da Lelia che vorrei avere la mia felicità. Se mi rifiuta, vivrò da sola e morirò vergine. Non voglio sporcare il mio petto che arde di puro amore con il seno di una cortigiana. Vieni dunque, Lelia, disse Pulcheria, tirando la sorella verso Stenio. Vieni a premiare una fedeltà degna dei tempi dei cavalieri. Alla vista di Lelia, Stenio emise un grido di sorpresa e la sua gioia fu così profonda da sembrare sofferenza. Fu costretto a sedersi di nuovo. Il suo bel viso impallidì e la sua testa si piegò involontariamente sul seno della cortigiana. Lelia parlò a bassa voce alla sorella e questa scomparve, senza che Stenio si degnasse di guardare l'uscita da cui era andata. Poi Lelia prese per mano il giovane poeta e lo condusse sotto le volte fredde e buie, illuminate di tanto in tanto da lampade appese alla volta. Stenio tremava e credeva di sognare. Era troppo confuso per chiedersi dove stesse portando Lelia. Sentì la mano di lei nella sua e temette di svegliarsi. Quando arrivarono alla fine di questa galleria sotterranea, Lelia si rimise la maschera e tirò la corda di seta di una campana. Una porta si aprì da sola come per magia. Lelia e Stenio salirono i gradini che portavano al padiglione di Afrodite. Mentre attraversavano un corridoio silenzioso, dove il rumore dei passi era attutito dai tappeti, Stenio credette di vedere una donna vestita come Lelia o come Pulcherie passargli accanto velocemente. Non se ne preoccupò perché Lelia lo teneva ancora per mano ed entrò con lei in un delizioso boudoir. Si tolse la maschera e la gettò su un mobile vicino, poi tornò a sedersi accanto a Stenio su un divano di seta ricamato d'oro, mentre una serratura veniva tirata fuori da qualche mano maliziosa o discreta. Stenio, mi hai disobbedita, disse Lelia. Ti avevo proibito di provare a rivedermi per un mese ed ecco che già mi corri dietro. È per rimproverarmi che mi hai portato qui? Dopo una separazione che sembrava così lunga, devo trovarti irritata con me? Non è passato un anno da quando ti ho lasciato. Come pensi che possa tenere il conto dei giorni che si trascinano da quando ti ho vista? E quindi non puoi vivere senza di me, Stenio? Non posso, o impazzisco. Guarda come le mie guance sono già scavate, come le mie labbra sono appassite sotto il fuoco della febbre, come i miei occhi e le mie palpebre sono devastati dall'insonnia. Dirai ancora che solo la mia immaginazione è malata e non vedi che l'anima può uccidere il corpo? Quindi non ti rimprovero, piccolo. Il tuo pallore mi commuove e ti rende bello, e poco fa la tua resistenza alle seduzioni di mia sorella mi ha resa orgogliosa di te. Capisco che è bello essere amata in questo modo e voglio provare, Stenio, a trovare la mia felicità in te. Sì, ho deciso, non cercherò altro. L'unica cosa che può addolcire la vita è un affetto come il tuo. Non lo merito, ma lo accetto con gratitudine. Non dire più che Lelia è insensibile. Ti amo, Stenio, lo sai? Solo che stavo lottando con questa sensazione che temevo di fraintendere e condividere. Ma tu mi hai detto più volte che avresti accettato l'amore che ti avrei dato, anche se fosse stato inferiore al tuo. Quindi non resisterò più. Mi abbandono alla bontà di Dio e alla forza del tuo cuore. Sento di amarti. Sei felice? Sei felice, Stenio? Oh, come sono felice! Disse Stenio cadendo ai suoi piedi e coprendoli di lacrime. È vero che non sto sognando. È davvero Lelia a parlare così. La mia felicità è così grande che ancora non ci credo. Credere, Stenio, e sperare. Forse Dio avrà pietà di te e di me. Forse lui renderà il mio cuore di nuovo giovane e degno del tuo. Dio deve questa ricompensa a te che sei così puro e così pio. Fai scendere su di me un raggio del suo fuoco divino. Oh, non parlare così, Lelia. Non sei forse 100 volte più grande di me davanti a lui? Non hai forse amato e sofferto molto più a lungo di me? Oh, sì, felice, riposa finalmente tra le mie braccia, da un destino così duro. Non affaticarti ad amarmi, non tormentare il tuo povero cuore per paura di non fare abbastanza per me. Oh, te lo ripeto, amami come puoi. Lelia mise un braccio intorno al collo di Stenio. Gli pose un lungo bacio materno e affettuoso sulle labbra, poi gli mostrò con un ineffabile sorriso il cielo che aveva appena ricevuto il loro giuramento. Stenio si sdraiò, ebbro d'amore e di gioia ai suoi piedi, poi un lungo silenzio seguì questo abbraccio. Ebbene, Stenio, disse Lelia, uscendo da una lunga e dolce fantasticheria, che cos'hai da dirmi? Sei già meno felice? Oh no, angelo mio, rispose Stenio. Ma il suo volto diceva il contrario. Le sue mani tremavano convulsamente, una nube era passata sulla sua fronte. Vuoi che facciamo un giro in gondola nella baia? Disse Lelia alzandosi. Cosa? Lasciarci già, rispose Stenio con tristezza. Oh, non ci lasceremo, diceva Lelia. Lasciarci non è tornare a quella folla. Stavamo così bene qui, crudele. Hai sempre bisogno di movimento e distrazione. Ammettilo, Lelia. La noia ti sta già inseguendo. Qui vicino a me. Stai mentendo, amore mio, rispose Lelia sedendosi di nuovo. Il suo volto era così bello e radioso che Stenio divenne fiducioso. Beh, disse, baciami di nuovo. Lelia lo baciò come aveva fatto la prima volta, ma quando lei cercò di staccare le labbra dalle sue, Stenio mise un gemito di dolore e cadde sul tappeto. «Cosa ti succede?» disse Lelia sollevandolo e portandogli la testa in grembo. «Ho la febbre!» fece Stenio. «Il mio amore non ti è servito a nulla, bambino. Oh, quanto sono infelice se ti affliggo di nuovo! Lelia, non hai pietà di me!» Compassione per te. E cosa posso fare di più? Ho sottomesso a te tutte le forze ribelli della mia anima, ho rinunciato a tutti i miei fantasiosi progetti per il futuro, per rifugiarmi nel tuo amore, ti ho dedicato il sentimento più puro e squisito della mia anima. Cos'altro vuoi? Quello che voglio. Quello che voglio. Sei fredda, Lelia, fredda come il marmo. Sono malato, brucio, mi manca l'aria nel petto. Questi profumi mi fanno impazzire il cervello. Togli questi fiori, mi uccidono. Stenio impallidì e Lelia lo guardò torvo. Mi fai pena, disse in tono quasi sprezzante. Non è un'anima che vuoi, è una donna, non è vero? Ma sono entrambe le cose, rispose Stenio, perché non sono Dio e la mia giovinezza mi tortura. Sai bene, Lelia, che non vorrei una donna sola, ma tu, che sei Dio e anima, non puoi essere donna per un giorno tra le mie braccia. Come pretendi che io creda al tuo amore se non ti discosti da nessuna delle tue affermazioni per me? Oh, Lelia, non senti che questo è il desiderio della natura e che ci devono essere piaceri indicibili nella fusione di due esseri che si amano? Non è forse nell'essenza dell'uomo desiderare di possedere tutto ciò che ammira? Quando un bel fiore cattura il tuo sguardo, non vuoi respirarlo, nasconderlo nel tuo petto, strapparlo dal suo stelo in modo che sia tuo, solo tuo? Sei così bella, Lelia, non vuoi che sia più felice di tutti quelli che ti guardano e ti ammirano? La fronte di Lelia si aggrottò sempre di più. Sempre, disse infine suo malgrado, sempre. Un desiderio grossolano, mescolato agli impulsi sublimi dell'intelligenza, sempre l'alito cattivo dell'uomo sulle più pure creazioni del pensiero. Quindi questo è ciò che volevi da me, è questa la fine miracolosa e divina che si proponeva la tua così poetica e grande passione? Stenio gettò il viso contro i cuscini, in preda alla disperazione, e morse il ricamo del divano. Oh, mi ucciderai, disse singhiozzando, mi ucciderai con il tuo disprezzo. Gli sembrò che Lelia stesse uscendo E alzò lo sguardo spaventato e si trovò nel buio profondo e si alzò per cercarla nell'oscurità. Una mano umida prese la sua. Vieni ora, gli disse la voce addolcita di Lelia. Ho pietà di te, fanciullo. Vieni sul mio cuore e dimentica il tuo dolore. 2. Quando Stenio sollevò la testa stanca, il canto degli uccelli in lontananza annunciò l'avvicinarsi della luce del giorno nella campagna. L'orizzonte si stava imbiancando e l'aria fresca del mattino arrivava con sbuffi profumati sulla fronte umida e pallida del giovane. Il suo primo movimento fu quello di abbracciare Lelia, ma lei aveva riattaccato la maschera e lo allontanò delicatamente, facendogli segno di tacere. Stenio si alzò con fatica e, rotto dalla fatica, dall'emozione e dal piacere, si avvicinò alla finestra semiaperta. La tempesta si era completamente dissipata. I pesanti vapori di cui il cielo si era caricato poche ore prima erano rotolati via in lunghe bande nere e venivano spazzati via uno a uno dal vento verso l'orizzonte grigio. Il mare infrangeva le sue onde spumose e disinvolte sulla sabbia della riva e sui gradini di marmo bianco della villa con un leggero rumore. Gli aranci e i mirti, agitati dal soffio del mattino, si piegavano sulle onde e scuotevano i loro rami in fiore nell'onda amara. Le luci si spegnevano dalle mille finestre del palazzo dei Bambucci e qualche maschera si aggirava appena sotto il peristilio fiancheggiato da statue pallide. Oh, che ora deliziosa! Esclamò Stenio, aprendo le narici e il petto all'aria tonificante. Oh, mia Lelia, tu mi hai salvato, io sono ringiovanito, sento un uomo nuovo in me, vivo, una vita più piena e più dolce. Voglio ringraziarti in ginocchio perché stavo morendo e tu hai voluto guarirmi e mi hai fatto conoscere le delizie del cielo. Caro angelo, disse Lelia, cingendolo con le braccia, sei felice ora? Oh, sono stato il più felice degli uomini, disse, ma voglio esserlo di nuovo. Togliti la maschera, Lelia. Perché nascondermi il tuo volto? Ridammi le tue labbra che mi hanno inebriato. Baciami come hai fatto prima. No, no, ascolta, disse Lelia. Ascolta quella musica che sembra uscire dal mare e avvicinarsi alla riva sulla cresta mobile delle onde. In effetti i suoni di un'ammirabile orchestra si levavano sulle onde e presto diverse gondole piene di musicisti e maschere emersero in successione da una piccola insenatura formata da boschi di aranci e catalpe. Scivolavano dolcemente come splendidi cigni sulle acque calme della baia e presto avrebbero superato le terrazze del padiglione. L'orchestra tacque. E un'imbarcazione di forma asiatica avanzò leggermente davanti alla piccola flotta. Questa barca, più fragile ed elegante delle altre, era montata da musicisti i cui strumenti erano tutti di ottone. Suonarono una brillante fanfara e queste voci metalliche, così sonore e penetranti, balzarono dalle profondità delle onde sulle pareti del padiglione. Immediatamente tutte le finestre si aprirono in successione e tutti i felici amanti che si erano rifugiati nei boudoir del padiglione e Afrodite si sparpagliarono a coppie sulla terrazza e sui balconi. Ma invano i gelosi e i maldicenti imbarcati sulle gondole lanciavano loro sguardi avidi. All'interno del padiglione avevano indossato nuovi costumi e sotto la copertura delle loro maschere salutavano allegramente la flotta. Lelia voleva portare Stenio con loro, ma non riuscì a farlo uscire dal delizioso languore in cui era immerso. Che importanza hanno per me le loro gioie e le loro canzoni? Posso provare ammirazione o piacere quando ho appena conosciuto le delizie del cielo? Lasciami almeno assaporare questo ricordo. Ma Stenio si alzò improvvisamente in piedi e aggrottò le sopracciglia. Cos'è questa voce che canta sulle onde? Disse con un brivido involontario. È una voce di donna, rispose Lelia, una voce davvero bella e grande. Osserva come le gondole e il litorale sono affollati per ascoltarlo. Ma, disse Stenio, il cui volto diventava sempre più angosciato, via via che i toni pieni e bassi di quella voce si alzavano verso di lui. Se tu non fossi qui accanto a me, con la tua mano nella mia, dovrei pensare che questa voce sia tua, Lelia. Ci sono voci che si assomigliano, rispose. Ieri sera non sei stato completamente ingannato dalla voce di mia sorella Pulcherie? Stenio ascoltava solo la voce proveniente dal mare e sembrava agitato da un timore superstizioso. Quella voce mi fa male, mi spaventa, mi farà impazzire se continua a farlo, gridò. Gli strumenti a fiato suonarono una frase di canto. La voce umana tacque, poi riprese quando gli strumenti ebbero finito. E questa volta era così vicina, così distinta, che Stenio, turbato, si precipitò in avanti e aprì completamente la cornice dorata della finestra. Sicuramente è tutto un sogno, Lelia. Ma quella donna che canta lì, sì, quella donna in piedi da sola sulla prua della barca, è lei, Lelia o è la sua sosia? Tu sei pazzo, disse Lelia alzando le spalle. Com'è possibile? Sì, sono pazzo, ma ti vedo due volte. Ti vedo e ti sento qui accanto a me e ti sento e ti vedo là. Sì, sei tu, la mia Lelia. Ed è lei la cui voce è così potente e bella. È lei i cui capelli neri fluttuano nel vento del mare. Eccola che viene avanti, portata sulla sua gondola saltellante. Oh, Lelia, sei morta? È il tuo fantasma che vedo passare? Sei una fata, un demone, una silfide. Magnus mi ha detto che eravate due. Stenio si sporse dalla finestra e si dimenticò della donna mascherata che gli era vicina e guardò solo la donna simile a Lelia nella voce, nell'atteggiamento, nella taglia e nel costume che vide arrivare sopra le onde. Quando la barca che la trasportava giunse ai piedi del padiglione, il giorno era puro e luminoso sulle onde. Improvvisamente Lelia si voltò verso Stenio e gli mostrò il suo volto con un segno di amichevole scherno. C'era così tanta malizia e crudele noncuranza nel suo sorriso che Stenio sospettò finalmente la verità. Ma lei è proprio Lelia! Esclamò. Oh sì! Quello che mi passa davanti come un sogno e che se ne va lanciandomi uno sguardo di ironia e di disprezzo. Ma colei che mi ha inebriato con le sue carezze, colei che ho stretto tra le mie braccia, chiamandola anima e vita mia, chi è dunque? Ora, signora, disse avvicinandosi al domino blu con aria minacciosa, vuoi dirmi il tuo nome e mostrarmi il tuo volto? Con tutto il cuore, rispose la cortigiana smascherandosi. Sono Zinzolina, la cortigiana, Pulcherie, la sorella di Lelia. Sono Lelia stessa, poiché ho posseduto il cuore e i sensi di Stenio per un'ora intera. Su via, ingrato, non guardarmi così. Vieni a baciare le mie labbra e ricorda la felicità per cui mi hai ringraziata in ginocchio. Fuggite! Gridò Stenio furioso, estraendo il suo stilo. Non restate un momento di più davanti a me, perché non so di cosa sono capace. Zinzolina fuggì, ma mentre attraversava la terrazza sotto le finestre del padiglione, gridò beffarda. Addio Stenio! Stenio il poeta! Ora siamo fidanzati! Ci incontreremo di nuovo!